Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Io faccio tra i 15 e i 20 km al giorno. Vado verso le 4 e mezzo, 5 di mattina. Non è che la colazione dopo il mangio come un disperato. Bevo del tè e mangio 2-3 biscotti. Allora ho deciso che avrei affrontato una sfida che mi sembrava folle. Andare da Firenze a Faenza in meno di 12 ore. Storie di corridori e di neonati in una puntata che si intitola Il cibo e io. Oh, bonsoir, monsieur. Come andiamo oggi? Meglio. Meglio? Meglio avere un secchio, sto per vomitare. Gaston, un secchio per monsieur. Questa sera abbiamo il suo piatto preferito, la lepre in salmi. La lepre molto frollata e la salsa è molto ricca, con dei tartufi, alice, grand marnier, bacon e pan. Merci, Gaston. Oggi abbiamo come antipasti moule marinière, pâté de foie gras, beluga caviar, ouf bénédictine, tarte de poireau, aussi torte di porc, coche di rana mandine, œuf de Kai Richard Shepherd, c'est-à-dire piccolo ouf di quaglia su un canapé di purée de funghi, e molto delicato e raffinato. Mi porti tutto. Stupendo scelta, monsieur. E ora, come lo vuol servito? Tutto mischiato insieme in un secchio? Sì, con le uova in cima. Questo è uno dei film più belli dei Monty Python, si chiama Il senso della vita, lui è il signor Creosoto, è un uomo enorme che entra in un ristorante e chiede di mangiare, insomma più o meno quello che avete sentito. Ve l'abbiamo fatta sentire perché oggi la puntata si intitola Il cibo ed io. Raccontiamo storie che hanno a che fare con non tanto con il mangiare, quanto con come il mangiare ci renda chi siamo, il mangiare o il non mangiare ci renda chi siamo, dica chi siamo e abbia a che fare con l'identità di ognuno di noi. Partiamo con la prima storia, che è la storia di un uomo che non ha mai avuto un ottimo rapporto con il cibo, che ha addirittura fastidio nel guardare gli altri che mangiano, che ha deciso di sublimare questo rapporto attraverso l'attività fisica, attraverso la corsa, delle corse estenuanti e lunghissime, ma questo non lo lascia comunque al coperto rispetto alle critiche e rispetto alla pace familiare con le persone che gli stanno intorno. E poi invece andiamo da un'altra parte, prendiamo un pezzo di storia che si trova in un libro bellissimo che si chiama Se niente importa, perché mangiamo gli animali, un libro di Jonathan Safran Foer, quello lo stesso di Ogni cosa è illuminata, che racconta una storia bellissima legata alla nonna. Insomma, la puntata di oggi è una puntata molto ricca, ci sono un sacco di storie, chiuderemo ovviamente con la nostra storia seriale, quindi come al solito mettetevi comodi, noi cominciamo a raccontare. Benvenuti a Linee d'Ombra. Chiariamo una cosa, non sono anoressico, non lo sono mai stato. Le signorine sono anoressiche, i maschi non lo sono mai. Io ho solamente un rapporto complesso con il cibo e con il mio corpo. Diciamo che mangiare non è mai stato il mio interesse principale, ecco. Sedersi a tavola, mangiare quello che altri hanno deciso vada bene per te, per il tuo corpo, tipo mangia la carne che ti fa bene, ecco, mi irrita senza ragione. Ho sempre trovato inutile e un po' fastidioso il rito del trovarsi intorno ad un tavolo per mangiare, magari per un tempo molto lungo. La convivialità, la forma, non mi sono mai interessate. La mia idea di nutrimento ideale era prendere un bicchiere di latte freddo dal frigo e un paio di biscotti. Farlo da solo, quando vuoi e come vuoi. Ancora oggi, questa per me è la mia idea di libertà. Nessuno che ti guarda mangiare, cosa, quanto, nessuno che ti dice hai mangiato troppo poco. Da piccolo mangiavo pochissimo, in adolescenza ho mangiato normalmente, direi. A un certo punto ho scelto di fare la facoltà di università fuori da Padova. Questo mi ha permesso anche di non essere sottoposto a nessun controllo alimentare. Lì è scattata la molla. Stavo fuori a pranzo e potevo mangiare o non mangiare. E ho visto che non mangiare non mi pesava, anzi mi faceva più piacere, insomma. mi faceva star meglio. Sul cibo c'era una polemica speciale tra noi fratelli. Quello che desideravo io non andava mai bene agli altri. Se io mangiavo e mangio pasta corta, loro volevano gli spaghetti. Se io adoravo la cioccolata fondente, loro preferivano quella al latte, gnocchi, tortellini e così via. Alla soglia dei 60 anni. È ancora così. E poi le quantità. Noi boomers siamo figli di genitori della guerra, segnati dalla paura della fame e delle ristrettezze, che hanno riversato su di noi la preoccupazione di non nutrire abbastanza i figli. La mia sensazione era di mangiare sempre. A colazione mangiavamo, a merenda mangiavamo, a pranzo, a cena, in vacanza. Al mare era l'apoteosi del mangiare. Ovunque eravamo assediati dal cibo. E io mangiavo pochissimo. Ero la pecora nera della famiglia. Ho perso il conto delle visite di medici e di specialisti consultati perché il bambino mangia poco. Ho aperto 1000 boccettine di carnitina record B12 a pranzo e a cena. Ho offerto le chiappe a iniezioni di ricostituente mattina e sera per anni, docile e rassegnato, ma sempre inappetente. Il controllo materno si è allentato poi all'università e ho iniziato un periodo di tregua col cibo. A pranzo spesso saltavo o prendevo un cappuccino, a cena spesso mi riusciva un giochetto di rimbalzi. Mangio a casa della morosa, ci vediamo dopo. Oppure, no no grazie, ho già mangiato di corsa a casa, sono a posto. Insomma, se avevo voglia mangiavo. Se non ne avevo, saltavo. Controllo ferreo della taglia. Taglia 44. Se mi diventava stretta, mangiavo di meno. Una cosa semplicissima. Ho imparato con la maturità che è meglio tacere piuttosto che ingaggiare polemiche inutili sul cibo, dal momento che l'idea che abbiamo di noi proietta la nostra immagine mentale su tutto. E pensiamo e diciamo cose che per gli altri non sono vere. Io mi vedo troppo in carne e vorrei perdere peso, solo che mi dicono che non è vero e per questo mi arrabbio oppure faccio arrabbiare gli altri. Gestire l'immagine reale e quella mentale è complesso e passa attraverso l'accettarsi e il volersi bene. È un po' un casino, insomma, una difficile trave di equilibrio. Daddy's on the sofa, pride of the neighborhood. My brother's in the ballet, seems he's got it set. And I'll be up at midnight with my cigarette. La mia mossa vincente per definire una tregua duratura col cibo è stata rimettermi a correre. Ho sempre corso tanto. Da bambino a Bari correvo per non prenderle. Adolescente, a 1000 chilometri di distanza, correvo per segnare mete nella squadra giovanile più titolata d'Italia. Allenamenti sfiancanti mi avevano premiato con un fisico da invidia, con quintali di fiato da spendere nelle partite di calcio al liceo e in patronato, e con tute e borse che negli anni 70 attiravano le ragazzine molto più di un selfie su Instagram. Insomma, altri tempi. Dopo i 40 anni mi sono rimesso a correre, prima un passo, poi l'altro, mezz'ora, un'ora, i primi 10 chilometri, 20, 30, come sarà fare una maratona? Per fare una maratona non ti basta l'energia che hai di riserva e devi imparare ad alimentarti. La prima volta che ho fatto 35 chilometri non lo sapevo. Sono svenuto sotto la doccia. Ho letto, ho imparato. La prima volta che ho corso 42.195 metri ero contento. Arrivando credevo di aver dimostrato a tutti di essere capace di gestire cibo e fatica. Invece è ripartito il ritornello. Mangi troppo poco, sei troppo magro. Allora ho deciso che avrei affrontato una sfida che mi sembrava folle. Andare da Firenze a Faenza in meno di 12 ore per dimostrare di essere in grado di unire il cibo e il consumo di calorie. Una corsa di ultramaratona non si improvvisa. Se vuoi correre per 100 km devi allenarti tantissimo. Le levatacce sono pazzesche, ma la motivazione è una molla potentissima. Il viaggio poi attraverso la notte e gli Appennini è fenomenale, magia pura ed emozione. Così, dopo 11 ore e 55 minuti, sono arrivato a Faenza in lacrime. Il mio rapporto con il cibo è un po' migliorato. Non abbiamo fatto pace, ma è una tregua tranquilla. Continuo a correre tutti i giorni e a correre la maratona e le ultramaratone. Ho la stessa taglia di quando ero al liceo e cerco di evitare discorsi polemici sul peso e sul cibo, anche se per lavoro mi è capitato di occuparmi di ristorazione e non è proprio facilissimo. Devo solamente cambiare specchio perché quello di Biancaneve che ho è uno spudorato mentitore. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them? Disregard a broken bottle top and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one got to know. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his way. C'è un vecchissimo adagio che ci ripetono da quando siamo bambini e che adesso va molto di moda, soprattutto da quando il cibo è tornato di moda e il racconto del cibo, della cucina è molto molto di moda, che siamo quello che mangiamo, e questo vale per le culture diverse in giro per il mondo, per le comunità, per le religioni. Ad esempio lo vedremo nella storia che racconteremo più tardi, che è una storia di Jonathan Safran Foer, che racconta di come è importante il cibo nella cultura ebraica, ad esempio, e quale tipo di cibo viene scelto e viene mangiato. In questo caso direi che nella storia di Carlo è sicuramente un tema identitario, se Carlo è d'accordo con me. Pronto? Ciao Carlo, buongiorno. Ciao Matteo. Come stai? Insomma, bene, dai. Senti, hai corso anche stamattina? Assolutamente sì. E quanti chilometri hai fatto stamattina? 12, ma sono reduce da un 44 domenica. Ok, quindi ti sei fatto un po' di pausa. Senti, quando te ne fai 15-20, cosa ci metti? Un'ora e mezza, due ore minimo? Un'ora e un quarto, un'ora e dieci, ah, un'ora okay, e un quarto. Ok, sei uno che va forte, mi sembra di capire. Non fortissimo, sono vecchio, quindi non fortissimo. Ma no, però mi diceva Anita che tra l'altro tra pochi giorni è il tuo compleanno, giusto? Sì. Quanti ne il fai? 18. 57. Ah, voglia, vecchia è un'altra roba. Senti, io partirei da fare la prima domanda che mi viene in mente leggendo la tua storia, cara. E innanzitutto grazie mille per avercela mandata. Lo so che lo dico a tutti, però in particolare storie che sento che sono così vicine o così dentro agli ascoltatori, ci tengo a ringraziare ancora più calorosamente. La prima domanda che mi viene da farti è: ma questa questione del rapporto col cibo, tu la vivi come un problema oppure no? No. Ok, ok. Cioè, sono gli altri che la vivono come un problema? Assolutamente sì. E perché è una roba che parte da quando eri ragazzino, giusto? Bambino, proprio bambino. Da bambino, cioè, il rapporto... Non mi piace mangiare, non mi interessa mangiare. Poi ci sono delle cose che mi hanno un po' segnato, alcune cose che mi vengono in mente, insomma. Quando ero alle elementari, mangiavamo tutti quanti in un refettorio e chi finiva usciva. E invece chi non finiva stava a guardare da un finestrone gli altri che giocavano fuori. Io non finivo mai. quindi ci sono dei micro traumi nella tua storia legati al cibo, mi sembra evidente. Sì, noi siamo una generazione che è cresciuta in un modo per il quale l'affetto dei genitori è passato attraverso il cibo, soddisfare, certo, i bisogni primari, certo, e quindi devi stare mangia, caldo, mangia. Esatto, sì, mangia. Hai mangiato, mangia questo, mangia quest'altro. Esatto. Appartiene in generale a tutta la cultura italiana. Tu sei di Bari, dico bene, sei pugliese di origine? Di nascita. Di famiglia veneta. Questa è una cosa che ti dà noia, il fatto di parlare di cibo, di vedere le persone che mangiano? Sì, mi dà proprio... non mi piace, è una cosa che non mi... l'aspetto conviviale, adesso tu so che sei anche tu un maratoneta, però l'aspetto conviviale prima delle corse, per esempio, tante volte ci si trova, certo, con gli amici, io evito perché non mi piace stare insieme neanche a mangiare, cioè, vado il giorno dopo, ci salutiamo, parto, corro, tra l'altro sono anche astemio, quindi non bevo la birra che dopo tutti bevono, certo, quindi... la birretta, come no, quello lo sono anch'io, guarda, quello anch'io, sono astemio, ho fatto ancora a 45 anni, c'ho ancora una vita a spiegare perché non mi piace il vino, perché non mi piace la birra, ed effettivamente con le persone nuove è sempre un po' un tema da trattare. C'è una cosa, una frase con cui tu chiudi la storia che mi piacerebbe che me la spiegassi, che è: devo solamente cambiare specchio, quello di Biancaneve che ho è uno spudorato mentitore. Cosa vuoi dire? Il mio rapporto col cibo è abbastanza tranquillo, sono gli altri che mi vedono molto molto magro, insomma, molto io credo di non essere molto magro, poi mi consolo col fatto che le tabelle dell'OMS dicono che il mio peso e la mia altezza sono al limite del normopeso, proprio limite però al limite, limite basso, immagino, giusto? Perché tu, sì, tu dicevi che pesi tra i 62 e i 63 kg, giusto? Sì, che sono alto 1,80. Ok, quindi però per far capire fuori, diciamo, io sono alto 1,84, ne peso 82, quindi sono 20 kg più di te, però io non mi sento grasso, è proprio una tua... No, ma infatti le tabelle sono, cioè, sono larghe, cioè sugli... Sì, certo, hanno una forbice sì, ampia. Quindi grande. Il tema dello specchio è rispetto allo sguardo degli altri. Sì, sì, sì, sì, perché è una cosa che con la quale un po' combatto, cerco di non fare più battaglie, nel senso che non devo spiegare più a ho un'età in cui non devo spiegare più a nessuno che sto bene così, mi sento bene, nel senso che quando uno finisce il passatore credo che abbia dimostrato che ha mangiato abbastanza in quelle 12 ore. Passatore, per chi non lo sapesse, è una 100 km, è una corsa di 100 km che si corre sull'Appennino, insomma è una corsa durissima, quindi esatto, mi sembra di capire, tu dici: ragazzi, a me non piace mangiare, da un punto di vista sanitario sto bene, mollatemi, grosso modo. Sì, ho imparato a gestirmi e gestire le risorse per chiudere maratone decorosamente, insomma. Mm-hmm. Non ho tempi da ore, certo, insomma, ma al di là delle maratone anche la vita quotidiana la gestisci, sì, cioè sì, il lavoro, sì, ad esempio. Certo, vivo tranquillamente, lavoro tranquillamente, mi alzo alle 4 di mattina per correre e vado a letto prestino, ma è una scelta, insomma, sto bene. Tu immagino che facendo tante corse hai un controllo medico abbastanza periodico, no? Cioè abitualmente io faccio corse solo in Italia, quindi ci vuole il certificato medico agonistico, mi ha sempre trovato perfettamente bene, anzi, cioè, per la mia età ho i battiti molto bassi, quella è una fortuna, non è una cosa genetica, insomma. Ah, chiaro. Carlo, l'ultima cosa, poi ti lascio tranquillo perché sento che comunque c'è anche una certa fatica nel parlare, non voglio violentarti e non voglio essere appunto invasivo. Hai fatto particolare fatica a scrivere questa storia e mandarcela, oppure è stata una liberazione o niente di tutte e due le cose? Allora, in parte è una liberazione, nel senso che di questa cosa non avevo mai parlato con nessuno. A parte la stretta cerchia della famiglia che lo sa, insomma, certo, con la quale combatto a volte. Ho fatto tanta fatica a scriverla. Perché i termini non sono poi quelli giusti, probabilmente alcune cose non sono neanche spiegate benissimo. Però c'è dentro tutto me, insomma, 57 anni di rapporto complesso, ma adesso più facile da gestire col cibo, insomma. E allora, con le campane che suonano sotto, Carlo, ti ringrazio moltissimo e in bocca al lupo per tutto. Magari ci vediamo per strada per una corsa qualche volta. Se riesco a starti dietro. Grazie, Carlo, grazie, davvero. Matteo, a presto, in bocca strada, al lupo. Grazie, ciao. Chocolate chip umbrella in his white glove, and shade from the sun was his intention. Here comes the ice cream man bouncing up the hill with a wig, the pumpkin. Se anche voi avete voglia di condividere un pezzo della vostra vita, un pezzo della vostra storia, potete farlo mandandocela a lineadombra@radio24.it. Una storia, un episodio, l'importante è che sia un pezzo della vostra vita e noi ci facciamo una puntata. Ora diamo la linea alle borse e poi torniamo a raccontare un'altra storia che ha a che fare con il cibo e con il raccontare. Sei a casa tua e ti stai annoiando? No, in realtà no. Sei disperato? No, non sono disperato. Sei solo? Non sono solo, c'è mia compagna. È evidente, sei proprio solo. Ma ci pensiamo noi. Ma chi? Entra nella redazione allargata di Off Topic. Ma per fare cosa? Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti. Cioè, come faccio? Vieni su Telegram, sì? E cerca Off Topic _ 24. E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito? Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch, Off Topic 24. Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina. E faccia un sorriso! Si diverta! Ma no, ma ne... Che la vita già dura poco! Ma no! Come? Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su aruba.it. Essere, non essere, qui sta il problema. Cosa andare a vedere nel weekend? Cosa arriva nella nostra città? No, per l'idea dell'ave! Non sarà mai che i miei figli... Io lascio l'oltraggio dei miei nemici. Quali sono le prime più importanti? Siamo qua in cerca d'un autore. Cartellone, il rotocalco settimanale sul teatro, seleziona gli spettacoli migliori con interviste ad attori e registi. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.15 su Radio 24, oppure mi potete riascoltare su podcast, una tournée radiofonica per sognare in tutti i teatri d'Italia. Linee d'ombra. In una puntata in cui nella prima storia abbiamo affrontato il rapporto con il cibo del nostro ascoltatore, ora ve ne raccontiamo un'altra che parla del rapporto con il cibo e con la carne in particolare, in uno degli scrittori più letti al mondo. Si chiama Jonathan Safran Foer e 10 anni fa ha scritto un libro che si chiama Se niente importa, e nel passaggio, nel pezzo di storia che stiamo per raccontarvi, racconta della sua meraviglia nel momento in cui ha scoperto il rapporto col cibo di suo figlio appena nato. State con noi. Forse il primo desiderio di mio figlio, inarticolato e ancora inconsapevole, fu quello di mangiare. Pochi secondi dopo essere nato, stava poppando al seno. Lo guardai con una soggezione che non aveva precedenti nella mia vita. Senza spiegazioni o esperienza, sapeva che cosa fare. Milioni di anni di evoluzione gli avevano infuso quel sapere, così come avevano inscritto il battito nel suo cuoricino minuscolo e l'espansione e la contrazione nei suoi polmoni appena liberati. Quella soggezione che provavo mi era sconosciuta, ma mi legava agli altri attraverso le generazioni. Vidi gli anelli del mio albero, i miei genitori che mi guardavano mangiare, mia nonna che guardava mia madre mangiare, i miei bisnonni che guardavano mia nonna mangiare. Mio figlio mangiava come i figli degli uomini delle caverne. Quando mio figlio cominciò a vivere e io cominciai questo libro, sembrava che per lui tutto ruotasse intorno al cibo. O stava poppando, o dormiva dopo la poppata, o faceva le bizze prima di poppare, o si sbarazzava del latte che aveva poppato. Mentre sto terminando questo libro, mio figlio riesce a gestire conversazioni abbastanza articolate. E sempre più spesso digerisce il cibo che mangia con le storie che noi gli raccontiamo. Nutrire mio figlio non è come nutrire me stesso, è più importante. È importante perché il cibo è importante. È importante perché il cibo è importante. E perché le storie che accompagnano il cibo sono importanti. Sono storie che cementano la nostra famiglia e che la legano ad altre. Le storie sul cibo sono storie su di noi, la nostra epopea, i nostri valori. Assorbendo la tradizione ebraica della mia famiglia, a poco ho imparato che il cibo serve a due scopi paralleli: nutre e aiuta a ricordare. La storia ebraica ci unisce tutti, anche in luoghi diversi, ma soprattutto sono le leggi sull'alimentazione che determinano la vita quotidiana dell'ebreo. Ora, quando gli ebrei sono stati deportati dal periodo da Tito nel 70 dopo l'era volgare, sono andati a finire nella loro dispersione, la diaspora significa dispersione, sono andati a finire in varie parti d'Europa. Nella parte spagnola e portoghese è venuta fuori la cucina sefardita, la parte del nord Europa la cucina aschenazita, e verso la Turchia e la Grecia la parte levantina. Poi abbiamo la cucina italiana. Mangiare e raccontare sono atti inseparabili. Le lacrime sono acqua salata. Il miele non solo è dolce, ma ci fa pensare alla dolcezza. Il pane azzimo è il pane della nostra afflizione. In molte fasi della mia vita ho dimenticato che avevo storie da raccontare sul cibo. Mi limitavo a mangiare quel che era disponibile o appetitoso, quel che sembrava naturale, sensato e sano. Che cosa c'era da spiegare? Ma il tipo di genitore che ho sempre pensato di voler essere non può sopportare un simile disinteresse. You know that I care. What happens to you? And I know that you care. For me too. So I don't feel alone on the way to the stone. Now that I've found somewhere safe to bury my bone. Any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing. Poi un giorno mia nonna mi raccontò questa storia. Non eravamo ricchi, ma non ci mancava niente. Il giovedì si cuoceva il pane e la challah e i panini e bastavano per tutta la settimana. Il venerdì si facevano le frittelle. Lo Shabbat, il sabato, mangiavamo sempre pollo e pasta in brodo. Andavamo dal macellaio a chiedere un po' di grasso in più. I pezzi più grassi erano i pezzi migliori. Non era come adesso. Non avevamo il frigorifero, ma avevamo latte e formaggio. Non avevamo tutte le verdure, ma ne avevamo abbastanza. Le cose che hai qui e che dai per scontate, non ce le avevamo, ma eravamo felici. Non conoscevamo di meglio. E anche noi davamo per scontato quello che avevamo. Poi cambiò tutto. Durante la guerra ci fu l'inferno in terra e io non avevo niente. Avevo lasciato la mia famiglia, sai. Scappavo sempre, giorno e notte, perché i tedeschi mi stavano alle calcagna. Se ti fermavi, eri morto. Il cibo non bastava mai. Mi ammalavo sempre di più a forza di non mangiare. Non solo ero pelle e ossa. Avevo piaghe in tutto il corpo, facevo fatica a muovermi. Non era un granché mangiare dai bidoni della spazzatura. Mangiavo quello che gli altri non erano disposti a mangiare. Se ti adattavi, potevi sopravvivere. Io prendevo tutto quello che riuscivo a trovare. Mangiavo cose che non ti darei mai oggi. Anche nei periodi peggiori c'erano persone buone. Uno mi insegnò come legare il fondo dei pantaloni per imbottirmi le gambe con le patate che riuscivo a rubare. Camminavo per chilometri e chilometri in quel modo, perché non sapevi mai quando avresti avuto di nuovo fortuna. Uno mi diede un po' di riso una volta e io camminai 2 giorni per andare a un mercato e lo barattai con del sapone. Poi andai a un altro mercato e barattai il sapone con dei fagioli. Dovevi avere fortuna e intuizione. Il peggio però arrivò verso la fine. Moltissime persone morirono proprio alla fine e io non sapevo se avrei resistito un altro giorno. Un contadino, un russo, Dio lo benedica, vide in che stato ero, entrò in casa e ne uscì con un pezzo di carne per me. «Ti salvò la vita?» le dissi. «No», mi rispose mia nonna, «non lo mangiai». «Come non lo mangiasti?» «Era maiale, caro mio, non ero disposta a mangiare maiale». «Ma e perché, nonna?» «Che vuol dire perché?» «Come? Ah, perché non era kosher?» «Certo, nipote mio. Ma, nonna, neppure per salvarti la vita?» «Se niente importa», mi rispose mia nonna, «non c'è niente da salvare». Animal. Questa storia è tratta da questo libro che appunto si intitola Se niente importa, tra parentesi, perché mangiamo gli animali. È un libro di Jonathan Safran Foer che racconta del suo rapporto col cibo in base alla sua storia, alla storia di sua nonna e alla sua discendenza ebraica, e quindi al motivo per cui nella cultura e nella religione ebraica si mangiano alcuni cibi e altri no. Uno di questi è il maiale, e quindi appunto sua nonna gli ha raccontato questa storia per cui, per quanto fosse affamata fino quasi alla soglia della morte, non accettò di mangiare un pezzo di carne di maiale, perché appunto, perché se niente importa non si può più salvare niente. Ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a raccontare la nostra storia seriale. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo. La mia linea di confine si lega a quello che faccio. Io sono maestro elementare e sento di essere sul confine. Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita. Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente... Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova... Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio Prendete padre. Il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linee d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721. Sono le 6 del mattino, buongiorno a tutti. Ma no, presidente, no, proprio lei mi sbaglia orario. 24 mattino inizia alle 6:30 e fino alle 9 su Radio 24 è qua per portarvi fatti, opinioni, analisi e le interviste con ministri, politici, industriali, sindacalisti e non solo, sui temi dei quali discute il paese. Quello che serve per dare il via alla giornata. Ci sarò io, Simone Spezia, con voi dal lunedì al venerdì. Spezia, basta, dai, sei una piaga sociale, su con la vita, dai, su. Eh già, per fortuna che dopo il GR delle 8 mi raggiungerà Paolo Mieli per commentare i fatti del giorno. Vi aspettiamo, ovviamente qua, su Radio 24. Tranquillo Spezia, so che sei bravo. Linee d'ombra. Immaginate di dover ricordare il rapporto con una persona che non c'è più da 70 anni. Immaginate di aver avuto un fratello che è scomparso praticamente 70 anni fa, di cui avete una memoria vaga, però è un fratello di cui in famiglia si parla tantissimo, ci sono ancora le sue lettere, tantissime lettere che mandava al papà, che mandava alla madre, che mandava a te e a voi e a tutti quanti i fratelli. Ecco, questo è quello che succede a Gianni Cocco, che è uno dei familiari di Antonio Cocco, il protagonista della nostra storia seriale, soprattutto perché Mauro Pesce lo incalza in questa puntata, in questo episodio, gli chiede di ricordare il rapporto con il fratello, gli chiede addirittura dei dettagli della loro vita insieme, visto che in una lettera che vi leggeremo, il fratello Antonio dice proprio di Gianni, dice che gli ha scritto una lettera e Mauro vorrebbe sapere qualcosa di più. Insomma, mettetevi comodi e ascoltate questa storia, la storia seriale di un giovane uomo che è partito per la Francia per scappare a un'inezia che gli è accaduta a scuola, ma negli anni 50 lo obbligano o a rientrare in Italia e a far la prigione perché è un clandestino, oppure a entrare nella legione straniera. Lui opta per questa seconda scelta, ma sin da subito chiede un modo, davvero urlandolo in quelle lettere a casa, di farlo tornare a casa, e ce le prova tutte lui, le prova tutte il padre. In questo episodio lui è a letto in un ospedale convalescente e cerca il modo per raggiungere un prete. Vorrei scriverti un sacco di cose su questo argomento, ma mi mancano le parole e non sono capace di collegare tutte le idee che ho in testa. Sono riuscito a sapere il nome del capitano cappellano di Sidi Bel Abbès. Dia papà, che detto sacerdote ha molta influenza qui ed è conosciuto da tutti. Sarebbe bene che scrivesse papà, perché io in francese non saprei come cavarmela. E inoltre, mandaste l'indirizzo al reverendo padre Legrand, perché vi ripeto che mi è molto difficile qui procurarmi i mezzi per scrivere e per imbucarla. Vi ripeto che ha moltissima influenza qui e da una sua parola può dipendere il mio rimpatrio. Padre Legrand, Vi ricordate? Beh, certo, il nome non lo ricordo. Mi ricordo che si scriveva con mio padre. Qualche volta mio papà leggeva anche ciò che ricevevo da Pierre Legrand, ma dopo tanto di più non so. Ho parlato orora con un'infermiera, mi ha detto che questa sera potrò parlare finalmente con il sacerdote dell'ospedale. Lascerò dello spazio per dirti com'è andata. Di inoltre a papà che qui non ci sono conventi, o meglio ce n'è uno, ma è maomettano per gli arabi. C'è una canonica con due o tre sacerdoti con i quali spero di mettermi presto in comunicazione. Ringrazia Mariella per il suo gentile pensiero e dille che sono quanto mai convinto che sentiate la mia mancanza. Anche Gianni mi ha scritto. Bravo. Cosa avevo scritto? Beh, no, non mi ricordo. Certamente gli scrivevo sempre. Allora, Tony è stato il fratello che mi ha insegnato a vogare, Sandro, che mi ha insegnato a nuotare bene, che mi ha insegnato come fare gli archi, le frecce, tutte queste robe qua. Per cui le mie avventure che avevo in giardino, quando uscivo in barca, gliele raccontavo. Infatti mi ricordo una volta che ero riuscito a tirare giù un colombo con una freccia e l'unica cosa mi ha detto: guarda che non puoi averlo ucciso in vano, devi mangiarlo. Ma con una freccia, scusa, con un arco? Sì, fatta da me freccia e arco, sul suo insegnamento, avevo beccato un colombo e ucciso in giardino di casa. E mi ricordo che questa regola morale l'hai ucciso, però non puoi abbandonarlo, devi mangiarlo. Per cui probabilmente gli raccontavo queste robe, insomma, no? Certamente io ero affascinato da ho ancora questa cartolina a casa con il disegno, era una cartolina in bianco e nero dipinta a mano di un gran serpente preso, e mi raccontavo queste cose qua e io ero affascinato, mi piaceva. Che ti ha disegnato lui per te? Questa. Diciamo, erano cartoline che poi venivano dipinte a colori a mano, come si usava, sì. E ce l'ho ancora a casa. Come ha spedito a me, ma forse l'ho già detto 50 volte, la stampa di questo, non è un Buddha, è un gran sacerdote, qualcosa, attaccato in una capanna prima che dovessero incendiarla. E ce l'ho ancora attaccata a casa. Se ritornerò a Venezia ti farò un sacco di pistole e fucili e ti racconterò un mucchio di cose dei villaggi neri, degli arabi, dei serpenti e delle iene, se sapessi quanto fanno paura di notte, mentre sei solo. Con questo, mamma, termino, abbracciando te e tutti. Tony. PS, mi dispiace, ma con quel padre mi sarà molto difficile parlare, perché viene qui raramente. Dovrò ancora aspettare d'uscire dall'ospedale, perlomeno. T'abbraccio e ti bacio ancora. Tony. To see you. Grazie ancora a tutta la famiglia Cocco, grazie a Mauro Pescio che raccoglie e racconta questa storia, grazie a quelli che fanno tutto il programma, tutto Linee d'Ombra, che sono Luca Micheli che sceglie le musiche, poi Anita Panizza che gestisce tutto quanto, e ancora il nostro Paolo Corleoni che sta alla regia e muove tutti quanti i tasti. Ora lasciamo la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.